Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Si è svolta sabato scorso l'assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali, un tradizionale momento di incontro, di confronto, di formazione, di condivisione e anche di informazione per tutti i volontari della diocesi. La settimana prossima, vi annuncio già, parleremo delle iniziative per l'avvento, perché la settimana prossima saremo proprio alle soglie dell'inizio dell'avvento, ma restiamo appunto sul tema dell'assemblea. Non ha potuto parteciparvi quest'anno il vescovo Claudio, che ha mandato però un messaggio a tutti i partecipanti. Buongiorno a tutti, quest'anno non posso essere presente alla vostra assemblea, alla quale parteciperei molto volentieri, perché sono venuto in Kenya per salutare i nostri preti e per partecipare al loro servizio e al loro impegno. Vi auguro di fare una buona un buon incontro, una buona esperienza di inizio di questo anno dedicato ad una sosta che rinfranca, e mi auguro anche che nella vostra vita, spesso immagino molto agitata e molto affaticata per gli impegni familiari, ma a volte anche per i nostri servizi, possiate trovare un momento di sosta nel quale rigenerare e motivare sempre più profondamente e spiritualmente il vostro agire. Credo che questo sia anche un grande contributo che noi possiamo dare alle nostre comunità e anche al nostro territorio, cioè quello di portare qualche cosa di spiritualmente grande, significativo, quasi con la stessa funzione che ha appunto il lievito nella pasta, quindi con la capacità di essere in grado di far lievitare tutto quello che abbiamo attorno a noi. Buon lavoro! Molte le esperienze da condividere, molto lavoro da fare. Proprio su questo l'augurio del vescovo dal Kenya. Il vescovo tornerà questo venerdì 18, poi sabato, ricordiamo, chiuderà l'ultima porta santa rimasta aperta in diocesi di Padova, che è quella del carcere, sabato mattina la santa messa di chiusura in questa particolare parrocchia. Diverse esperienze sono state raccolte, dicevamo, condivise nel corso dell'assemblea delle Caritas parrocchiali, che costituiscono la base della rete appunto dei centri di ascolto vicariali che già sono stati organizzati e riorganizzati in questi anni, e proprio tramite le parrocchie poi arrivano diverse segnalazioni, anche diversi feedback, cioè quello che ci torna indietro dall'esperienza. Allora sentiamo alcune voci raccolte proprio in occasione di questa assemblea diocesana. Caritas ha fatto tantissimo per me, perché mi ha dato un alloggio per dormire per un periodo di tempo, sta finendo il periodo. Poi mi ha aiutato a trovare un dentista per mettermi a posto dopo la bocca che avevo bisogno, e poi mi ha dato anche un po' più di speranza, perché nella situazione che ero messo molto molto male, non fisicamente ma male, moralmente ero capo. Giusto, la ricchezza la vedo nel gruppo e nel fatto che la Caritas è vicariale, questi due elementi in questo senso. Il gruppo, perché non facciamo mai un dialogo da soli e c'è sempre l'apporto di un altro volontario, e poi c'è lo scambio dopo gli incontri avvenuti anche separatamente in sale distinte. Quindi il gruppo è una forza. Bravi, perché ci siete. Di solito come parroco, per promuovere un'iniziativa in parrocchia bisogna fare tanta fatica, invece mi è capitato con la Caritas che ho accolto io l'invito pressante di alcune persone per iniziare un gruppo Caritas, e quindi l'esperienza è molto bella, perché è nata come richiesta dal basso e non come quasi un'imposizione dall'alto. La cosa bella è che da una parte l'inizio della Caritas, io uso un'immagine, ha scoperchiato quasi una pentola in cui dentro c'erano magari problemi, necessità, bisogni che non si conoscevano, però dall'altra parte ha anche scoperchiato una pentola di risorse, di tante persone buone, e direi questa forse l'esperienza, la cosa più bella. il mio rapporto non solo personale ma anche di istituzione con Caritas è qualcosa che mi fa venire in mente la parola appartenenza, cioè appartenenza a una, a un lavoro per il bene comune, per la collettività, insomma all'interno della collettività, e il fatto di essere in istituzioni diverse, con mission diverse, con modalità diverse, con approcci diversi, comunque mi fa essere, come dire, appartenente a una cosa comune, insomma, a un lavoro insieme, a un obiettivo comune. E il fatto di farlo insieme mi dà anche un ritorno rispetto al senso che io do non solo del mio lavoro, del mio essere, del mio stare in questo mondo, ma anche insomma del fatto della, così, dell'approcciarsi a una diversità che a volte è complicata, a volte è frustrante, a volte è sì, molto difficile. L'augurio che faccio è quello di avere un amico povero, di tenersi sempre un amico povero, perché proprio come relazioni a livello di persona, proprio a livello di personale, un amico povero aiuta tanto a decantare, a smontare tanti problemi, tante cose che a volte ci facciamo nella vita normale, invece ci fa bene a volte tornare con i piedi per terra. Molta cautela, cioè la cosa prima è quella di mantenere proprio una cautela nell'accostare le persone e poi di confidare molto nel gruppo. Di continuare ad esserci, perché a noi operatori dei servizi la vostra presenza non solo facilita il lavoro, ma è uno dei serbatoi in cui andiamo a ricercare la motivazione per continuare il nostro lavoro. Voci di volontari, voci di un parroco, era Don Umberto Sordo, il parroco della cattedrale di Padova, voci di persone che hanno ricevuto aiuto dalla Caritas e molto aiuto, di molto aiuto c'è sempre bisogno appunto in tutto il territorio. La città per le sue caratteristiche urbane e urbanistiche, ma anche le zone più periferiche del territorio, dalla campagna fino alle zone montane e pedemontane. Per questo ricordo ci sono come punti di riferimento i centri di ascolto vicariali delle povertà e delle risorse, perché certamente ci sono le povertà, ma ci sono anche molte risorse per affrontare insieme questa situazione. Trovate tutta la rete disponibile, tutti i riferimenti, come sempre, sul sito caritaspadova.it. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.